Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, martedì scorso una vostra ascoltatrice ha fatto sapere con una sua lettera di essere sconcertata dal fatto che il film Katyn non fosse stato adeguatamente visto in Italia. Sono appassionato di cinema e non avendolo potuto vedere nelle poche sale cinematografiche in cui è stato proiettato, l'ho cercato e l'ho visto successivamente su Sky, dove è stato programmato più volte nel corso del mese di marzo. Così l'ho potuto apprezzare. Sabato sera anche Rai 3 l'ha proposto in seconda serata. Con questo ritengo smontate le considerazioni politiche che avevano accompagnato la lettera dell'ascoltatrice, che affermava che non si volesse dare spazio alla strage operata dalle autorità sovietiche all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Agostino. È vero, caro Agostino, anche la RAI ha finalmente programmato il film sulla strage di Katyn. E lo ha fatto ben due volte. La prima quasi a mezzanotte, sulla terza rete. La seconda in prima serata, ma sulla rete satellitare. Le apparenze sono salve, ma nella sostanza resta il fatto che viene considerata ancora scomoda e quindi un po' da nascondere una ricostruzione storica che mette in luce le responsabilità dell'Unione Sovietica. Ho seguito il botta e risposta tra Fini e Berlusconi in televisione e, indipendentemente da come la penso politicamente, Fini mi è piaciuto. Ha detto cose sensate, di comune buon senso pratico. Soprattutto bello l'accenno, poco condiviso, ma era prevedibile da parte di una sala così schierata, sulla legalità. Quanto ha ragione e quanto è stufo il cittadino che fatica a tirare avanti, pensando che in quel momento la stragrande maggioranza dei suoi compatrioti è impegnata a non pagare le imposte, penalizzando i servizi di cui tutti hanno necessità. Fini, durante l'intervento, ha fatto un ragionamento complessivo che va ben oltre la fase Berlusconi, mentre quest'ultimo lavora con l'idea fissa «dopo di me il diluvio». Indubbiamente ciò lo ripaga dal punto di vista mediatico-elettorale, ma alla lunga non fa certo del bene al paese. Incomprensibile poi l'accusa a Fini di far politica rivestendo un ruolo istituzionale. Forse che la seconda carica dello Stato non ha mai espresso idee politiche? Il fatto è che sono sempre passate inosservate, perché innocue, in quanto aderenti alle politiche espresse dal suo capo. Insomma, di qui la coscienza critica di Fini e di là quella della Serracchiani, con Montezemolo che si avvicina ai blocchi di partenza. Che dopo 15 anni ci sia finalmente qualcosa di nuovo nell'aria? Ferruccio. Gentile direttore, una delle principali ragioni che hanno portato il presidente Fini alla spettacolare e teatrale rottura, io credo definitiva, con Silvio Berlusconi e con il PDL, è il dissenso con la Lega Nord. Ma più che dissenso, forse, si tratta di preoccupazione per la sostanziale crescita del movimento di Bossi in tutto il Nord Italia. Bossi ha rivendicato il diritto di mettere suoi uomini nelle banche. Ha conquistato due grandi regioni come Piemonte e Veneto. In Lombardia è di pochissimi punti percentuali alle spalle del PDL. Ha addirittura più voti dell'UDC nella centrale Umbria. L'atteggiamento dei finiani è quindi da capire, ma non necessariamente da condividere. Curiosando tra le biografie di questi dissidenti, ho notato infatti un elemento che ha confermato quella che era la mia sensazione. Escludendo Fini, originario di Bologna, ed il perugino Ronchi, il quale rientrerebbe per il rotto della cuffia tra i nativi padani, tutti gli altri sono meridionali. Sarà un caso o una componente che ha influenzato questa rottura? Da Roma in giù troviamo le origini e i primi passi politici dei vari Bocchino, Urso, Granata, Moffa, La Morte, Viespoli, eccetera. Proprio Bocchino ha lamentato che in Meridione non vi siano istituti bancari. Ma non dimentichiamo che c'erano e sono falliti. Non esisteva un Banco di Sicilia? E il Banco di Napoli? E i 4 miliardi che il governo inviò urgentemente in Sicilia circa un anno fa? Dove sono finiti? Un'altra ipotesi è, a mio parere, la preoccupazione di una parte politica di vedere finalmente operativo il federalismo fiscale. Federalismo è sinonimo di vera responsabilità degli amministratori locali, caratteristica non tanto diffusa nel Mezzogiorno. I deficit spaventosi causati da persone come Bassolino hanno sempre trovato la sponda statale eretta con fiumi di denaro pubblico. Queste sono solo alcune mie semplici riflessioni all'indomani dello scontro politico a cui abbiamo tutti assistito. Marco. Intervengo in ordine al dissidio che sta animando il dibattito interno al PDL tra Berlusconi e Fini. Non mi è piaciuto il comportamento di Berlusconi appena l'amico alleato ha fatto presente la necessità di un vero e maggiore dibattito all'interno della coalizione. A mio parere, negli ultimi mesi, Fini ha dimostrato di essere un leader politico attento alle istituzioni e ai relativi comportamenti. Berlusconi, invece, mi è parso teso a difendere la propria posizione personale, un politico che pensa soprattutto ai propri affari. Agostino da Genova. Fini ha l'ambizione di diventare primo ministro o capo di Stato o leader di qualsiasi nuova carica dovesse nascere, tipo premierato o cancellierato, ma capisce che l'orizzonte si allontana perché Berlusconi vuole continuare la sua avventura politica rimanendo al timone. Come se non bastasse, la Lega reclama la carica di primo ministro. Non ce la fa a star lì a guardare. Marco. Giovedì scorso Fini ha perso un'ottima occasione per dire chiaramente a Berlusconi tutto quello che non va. Invece gli ha spiattellato solo il 5% delle magagne, ma non ha avuto il coraggio di dirgli tutto il resto. E poi, quando Berlusconi replicava, devo riconoscere con un certo effetto, Fini sembrava una scatola vuota, risatine, faceva di no col dito, eccetera. Fini sembrava fosse cresciuto in quest'ultimo periodo, ma purtroppo è rimasto quello di qualche anno fa, molto fumo e poco arrosto. Purtroppo. E anche Bersani avrebbe fatto meglio a stare zitto. Giovedì scorso il PDL ha dato per la prima volta prova di essere quasi un partito, dove però c'è il superpotere del capo, anzi il mito del capo. Ma anche la Lega non scherza. Si è sentito mai qualche leghista criticare il comportamento di Bossi? Tutto quello che fa o dice Bossi per loro è Vangelo. Mario. Questo fantomatico centrosinistra senza sangue nelle vene, dall'aria aristocratica e un po' snob, mai si sognerebbe di lasciarsi trascinare in aperti dibattiti che hanno il sapore acre della democrazia, come quello che si è visto giovedì scorso alla direzione nazionale del PDL. E lo dico da elettore di sinistra, Davide. Finalmente un confronto lineare e trasparente e anche molto ascoltabile. Basta discorsi preparati, preordinati e di circostanza. Questa volta invece sono stati elencati i punti critici, botta e risposta, tutto in diretta e trasparente. Credo che alla fine ai cittadini tutto questo sia molto piaciuto, al punto che, come al solito, il PDL avrà guadagnato altri consensi per il modo in cui è stato svolto il dibattito. Credo comunque che sia stato importante che Berlusconi e Fini si siano parlati. Quello che non capisco sono gli ex DAN che si sono schierati subito con Berlusconi. Ma che cosa si aspettavano? Che Berlusconi buttasse fuori Fini? Io sono convinto che tutto questo malumore sia stato creato ed alimentato proprio da loro. Pinuccio. Penso che abbiate visto giovedì sera le telecamere di Santoro attaccare militarmente il paese di Adro, reo di voler far pagare i servizi elargiti nelle mense scolastiche. Ma in questi giorni è stata diffusa la notizia relativa alle mense scolastiche di Savona, comune rossissimo, tutto banca e coop. Una delibera della giunta comunale informa che gli utenti che presentano i bollettini insoluti non potranno essere ammessi alla mensa per il prossimo anno scolastico. E stiamo parlando di 500 utenti morosi, o evasori, così andrebbero chiamati, su un totale di 3.000. Non è male per una città che scoppia letteralmente di soldi, dove le banche ormai aprono filiali a raffica, anche al primo e secondo piano nei palazzi, essendo i pianterreni ormai esauriti. Allora come la mettiamo? Vedremo Santoro sbarcare a Savona? O Travaglio entra in Darsena Vecchia con uno dei suoi tanti yacht? Vogliamo parlarne o facciamo come gli struzzi? Marco, vado ligure. A proposito della mensa di Adro, sono d'accordo per la sospensione del servizio per gli utenti che non pagano, a prescindere se siano bimbi o no. Non stiamo pagando noi con il peccato originale quello che Adamo ed Eva hanno fatto nel paradiso terrestre? Il sindaco di quel paese si è limitato ad eliminare un assistenzialismo che un po' ovunque ha creato genitori di serie B, cioè quelli che pagano i servizi. Gli utenti morosi, invece, fregandosene, ricevono comunque il servizio, tanto c'è chi paga per loro. A parte poi le storture di quei genitori che arrivano con i macchinoni a prendere i figli a scuola e solo perché denunciano falsamente i loro guadagni, evitano di pagare servizi e quant'altro. Enzo. Amo molto il tricolore, la mia bandiera, e sono fiero nel vederla sventolare insieme alle altre quando mi rappresenta nelle mie competizioni all'estero. Vorrei chiedere agli odierni sostenitori di sinistra che oggi difendono il tricolore perché non lo hanno difeso quando un partito della loro stessa sinistra per 50 anni ha avuto un simbolo che copriva il tricolore con una bandiera straniera con la falce e martello. Simone. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.